Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria parleremo anche noi, dico anche perché se n'è appena occupato Oscar Giannino, ma nella seconda ora di pensioni, non solo per quello che era il tema, ossia il fatto che il bonus Poletti sulle perequazioni pensionistiche sia legittimo, come ha deciso la Corte Costituzionale. La vicenda riguarda, se qualcuno ricorda, insomma, la legge Fornero bloccò parzialmente l'adeguamento all'inflazione degli assegni pensionistici più alti. Attenzione, la Corte Costituzionale dispose però, disse che era illegittimo il mancato adeguamento anche per le pensioni più alte. Se fosse stata accolta completamente la sentenza della Corte, il governo avrebbe dovuto tirar fuori 24 miliardi a suo tempo, perché era il 2015, ossia una manovra finanziaria. Il governo approvò un decreto che sostanzialmente prevede un nuovo meccanismo di perequazione e che di fatto riduce a poco meno di 3 miliardi il conto per lo Stato. Questo è il bonus Poletti, e cioè è al 100% l'adeguamento con l'inflazione per le pensioni che sono fino a 3 volte il minimo, il 40% per quelle che vanno da 3 a 4 volte il minimo, il 20% da 4 a 5 volte, il 10% da 5 a 6 volte. Sono partiti i ricorsi degli esclusi, ma la Corte Costituzionale ha dato ragione al governo sostanzialmente. Di questo parleremo, ma anche continueremo il tema di ieri, perché insomma, dopo che si è scoperto che la speranza di vita è aumentata 5 mesi, si andrà in pensione a 67 anni nel 2019, dai 66 anni 7 mesi a 67 anni, molti anche ieri hanno commentato insomma quanto resteremo. Ho capito che la Fornero collega la pensione all'aspettativa di vita, però non puoi neanche portare all'estremo questo concetto, perché ieri con una battuta diciamo vabbè, ma se quando l'aspettativa di vita dovesse arrivare a 100 anni, cosa facciamo? Lavoriamo fino a 81, 80, e soprattutto si fa una grossa ingiustizia. È vero che esistono lavori già considerati usuranti, ma insomma si fa una grossa ingiustizia per chi ha iniziato a lavorare. Molti ci hanno scritto ieri a 15 anni, a 16 anni, che si ritrova a lavorare 50 anni per fare una parte residuale di pensione. Comunque 43 anni e 3 mesi di lavoro per uscita anticipata per gli uomini, per le donne 42 anni e 3 mesi dal 2019. Poi ci sono dei calcoli in cui obiettivamente insomma il padre che va in pensione a 57 anni avrà il figlio che andrà in pensione a 71, soprattutto quando vai a verificare le baby pensioni della pubblica amministrazione, insegnanti ma non solo. E poi appunto c'è il tema dei lavori usuranti. Non tutti i lavori, col massimo rispetto per tutti i lavori, ma non tutti i lavori sono uguali, non tutti i lavori possono essere fatti in un'età così avanzata. Lo dico contro il mio interesse, ma insomma uno può anche, se appunto se ha una normale capacità di intendere, di volere scrivere un articolo a 70 anni, scrivere un libro a 72, 73, altra cosa è chiedere di guidare un camion o di tenere una classe di bambini o di ragazzi a quell'età. Cioè, insomma, bisogna anche fare delle distinzioni. Il consulente lo puoi fare benissimo a 73 anni, appunto 74 anni, ma anche il manager, delle volte altri lavori che richiedono non solo una prestanza fisica ma anche diciamo una usura quotidiana. Beh, insomma, possiamo immaginare che uno guidi l'autobus anche a 75 anni, però. E questo lo dico perché oggi il ministro Martina è tornato sul tema, ha detto che bisogna rinviare l'aumento dell'età pensionabile, il meccanismo va rivisto, non tutti i lavori sono uguali, è chiaro che la politica è sensibile anche alle elezioni, ma il tema c'è tutto e ne parleremo. In apertura invece, per quello che riguarda la cronaca della giornata economico-finanziaria, parleremo di Alitalia, perché c'è il fondo Cerbero che è una boutique, come si chiama in gergo, avvoltoio, nel senso che non è un fondo che vada a fare beneficenza, non lo fa nessuno, ma in questo caso si chiama fondi avvoltoio perché vanno a infilarsi nelle crisi, che siano crisi per sofferenze bancarie o crisi, come nel caso dell'Italia, gestionale, e di redditività poco cambia. È guidato dall'ex vicepresidente americano Dan Quayle e gestisce circa 30 miliardi di dollari con 150 professionisti e investe solo o quasi esclusivamente in aziende in crisi da ristrutturare oppure appunto nelle sofferenze bancarie e nel settore immobiliare quando ci sono appunto situazioni di crisi anche nel settore immobiliare. Dicevo, è arrivata un'offerta per tutta l'Italia, questo scrive il Financial Times. La Lufthansa invece ha confermato l'interesse per una nuova Alitalia, ma ha escluso di nuovo l'ipotesi di un'acquisizione della compagnia allo stato attuale, cioè per come è fatta adesso. Dice però Lufthansa, il mercato italiano è molto interessante. Questo per quello che riguarda un altro tema di apertura, il Monte dei Paschi, che oggi ha debuttato debole sotto il livello di collocamento, che era 4,28 euro, poi è risalito appunto fino a 5 euro per azione. Appunto è stato un debutto molto atteso quello del Monte dei Paschi, però da questo punto di vista segnalo che complessivamente la borsa perde lo 0,80% a Milano, Parigi meno 0,50 come Francoforte, Londra perde un punto percentuale, Dow Jones meno 0,50, va bene solo Leonardo più 1,50, Mediaset tra i titoli maggiori chiaramente, Mediaset più 1,20 e Hughes Net a Porter più 0,70%. Negativi oggi molti energetici, mi riferisco a Saipem meno 4,22%, ancora Italgas meno 2,80, Fiat Chrysler meno 2,60, Tenaris meno 2, Ferragamo meno 1,80, Terna meno 1,70 come Enel e ricordati, Buzioni c'è meno 1,50 per cento. Il petrolio è in calo, ma non è un calo, è ancora sopra $50 a barile, $52 in calo dello 0,6%. 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre la diretta anche su Facebook. Andiamo avanti con le notizie in breve. Allora, il PIL britannico meglio delle attese, più 0,4%, trainato dal settore servizi, e c'è si avvicina un rialzo dei tassi di interesse, anche perché la banca centrale inglese continua a vedere questa come una delle possibilità, mentre in Germania l'indice sulla fiducia delle imprese è salito a un nuovo record a 116,7 punti. Veniamo all'Italia, dove oggi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan al question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione dei 5 Stelle sui criteri da adottare per proporre la nomina del governatore della Banca d'Italia, ha detto insomma il criterio è la salvaguardia dell'autonomia della Banca d'Italia. Il comma 8 dell'articolo 19 della legge 262/2005 dispone che la nomina del governatore sia effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio Superiore della Banca d'Italia. Per quanto attiene ai criteri, le decisioni del Presidente del Consiglio, come la Presidenza del Consiglio ha fatto sapere nei giorni scorsi, saranno basate sulle prerogative a lui attribuite dalla legge ed ispirate esclusivamente al criterio di salvaguardia dell'autonomia dell'Istituto. Ancora invece Almaviva, la vicenda Almaviva. Domani vi sarà l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico su Almaviva Contact, parteciperà anche l'ENI. Questo perché la decisione di Almaviva Contact di trasferire 65 lavoratori dalla Lombardia alla Calabria è stata presa dopo la fine di un contratto con l'ENI. Terminato, come ha spiegato Calenda, per due ragioni: scadenza del termine e la decisione dell'ENI di internazionalizzare il servizio. Calenda ha anche aggiunto che dopo il caso Almaviva il governo ha deciso di anticipare a novembre la verifica dell'attuazione del protocollo sui call center, quello siglato a maggio scorso. La commessa ENI cui si fa riferimento è terminata per due distinte ragioni. Da una parte è scaduto il termine lo scorso settembre, dall'altra la società ha deciso di internalizzare questo tipo di servizio. Almaviva, dopo una trattativa sindacale non coronata da successo, ha conseguentemente deciso di impiegare una parte dei lavoratori attivi su Milano su commesse provenienti da altri sedi e di ricollocare 65 addetti in Calabria presso la sede di Rende. Ho chiesto immediatamente ai vertici di Almaviva di recedere da questa decisione, convocando l'azienda e l'ENI presso il Ministero per cercare una soluzione che eviti i trasferimenti che io stesso ho definito licenziamenti mascherati. L'incontro cui parteciperà anche ENI è fissato per il giorno di domani. Accogliendo una specifica richiesta dei sindacati, abbiamo chiesto di anticipare la verifica di questo accordo. A novembre verificheremo i risultati. Questi impegni molto stringenti, per la prima volta diciamo il governo si impegna contro delocalizzazione anche nell'Unione Europea, sono ovviamente dovuti a un settore che è la parte più fragile della filiera produttiva italiana, e su questo il governo continuerà a impegnarsi a partire dai trasferimenti a Rende. Oh, tanto Calenda ha detto che non si candida, quindi non sto facendo un endorsement in vista delle prossime elezioni. Magari avessimo tanti altri ministri come Calenda, lo dico, ma avrei a nulla come pensi, perché è sempre sul pezzo, cioè, e riconosce in maniera anche molto obiettiva, un po' come ha stoppato l'IVA difendendo irricevibile quella proposta di ArcelorMittal. Anche in questo caso non usa giri di parole, dice che quello che Almaviva ha fatto, a me dispiace per Almaviva perché in questo modo è andata a confermare tutti i luoghi comuni sui call center, mettiamola così, come luogo di sfruttamento, la parte debole, dice Calenda in questo intervento in aula. Ah, no, tu non puoi mandare una lettera dicendo: guarda, se vuoi restare in azienda dal mese prossimo ti trasferisci a Reggio Calabria. Ma che cavolo di ragionamento è? No, ma fai prima a fargli trovare le ruote bucate quando escono dal lavoro, cioè, ma che... Ma io mi chiedo, ma l'ufficio del personale e i manager di Almaviva, cioè, ogni tanto si rendono conto che l'effetto boomerang è immediato? Ma perché non dire a questo punto, con massimo rispetto, Pantelleria, le Egadi, posti anche belli, per carità, non magari d'inverno, non sei la famiglia a Milano, non sei, tra l'altro non stai guadagnando cifre da top manager che dice: vabbè, dai, no, faccio su e giù. Ah, per favore. Perché uno difende, per carità, le ragioni anche dell'impresa, ma quando vedi sto comportamento da così grezzo, inteso come dato oggettivo, cioè che uno non va neanche a ragionare, ma c'è saltato un contratto, ho capito, e mandi una lettera dicendo che dal mese prossimo andranno a lavorare in Calabria. Detto questo, bene ha fatto anche Calenda a ricordare che vuole vedere come si sta attuando il protocollo sui call center siglato a maggio scorso. Ecco perché dico che a me piace Calenda, è sul pezzo, non fa tanti discorsi retorici, no? Non fa tanta fuffa, sì, ma anche vabbè. All'Italia adesso, dopodiché, se si dovesse candidare non potrò più fare questi endorsement, soprattutto in fase di par condicio, ma finché non si candida, voglio dire, viva Calenda, averne. Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Allora, dopo questo endorsement per Calenda, non è che non voglio sentire la tua opinione, però voglio capire come sta buttando su all'Italia, perché è arrivata anche Cerberus Capital Management, che non è esattamente la Croce Rossa, nel senso che investe, è un fondo avvoltoio, investe in situazioni di crisi, in aziende da ristrutturare, in prestiti bancari in sofferenza, oppure nel settore immobiliare quando ci sono ipoteche, mutui e quant'altro. e dice che è interessata tutta all'Italia. Ora è a 30 miliardi di dollari, uno dei principali fondi di private equity statunitensi. Questo, se ho ben capito, l'offerta consentirebbe alla compagnia di bandiera italiana di restare indipendente. La fonte è Financial Times, per cui la riferiamo come tale, però avrebbe scelto di non presentare un'offerta vincolante. Mentre ho visto oggi che Lufthansa dice attenzione, a noi non interessa l'Italia così com'è, ci interessa un'Italia, diciamo, risanata. Allora, ho difficoltà a immaginare, giustamente, che il fondo Cerberus sia un fondo di beneficenza. Allora perché la vogliono tutta? Ma aspetta, ricapitoliamo un attimo però una serie di passaggi importanti. Allora, cominciamo a dire innanzitutto che Cerberus si tratta di un fondo extraeuropeo, quindi comunque non potrebbe avere bravo. Poi ricordiamo anche che c'è una procedura, c'è un'asta pubblica, quindi non è che si può, chi si è tenuto fuori all'asta pubblica deve rispettare una serie di procedure. Quindi, Cerberus, che aveva manifestato interesse in passato, poi non ha presentato entro il 16 ottobre alla scadenza l'offerta vincolante. Quindi a questo punto è fuori e può partecipare eventualmente in cordata con uno dei 7 gruppi che hanno presentato l'offerta vincolante. Gruppi che avrebbero presentato però offerte appunto solo per singoli lotti, singole parti appunto dell'azienda, non per l'intera azienda. C'è una seconda opzione che al 30 aprile, quando è fissata la fine del negoziato, scadenza poi, cioè, che potrebbe poi anche essere spostata, comunque qualora il governo vedesse i tre commissari, in seconda battuta il governo, che poi è quello che deciderà poi l'esito della partita, dovessero valutare che il negoziato non sta producendo i risultati attesi, allora a quel punto si potrebbe azzerare tutto e ripartire. E a quel punto Cerberus rientrerebbe nella partita. Però al momento può partecipare se è interessato solo in cordata con e non per tutta per rilevare da solo tutta la compagnia. Quindi chi è rimasto di chi può, cioè EasyJet e Lufthansa? Allora, ho fatto quella premessa solo per dirti che quando si fa un'asta pubblica bisogna stare attenti, perché le dichiarazioni, le frasi che si fanno uscire, si fanno delle volte sia per, come dire, o svalutare o valutare, diciamo, le proprie offerte, le proprie, o appunto il bene che si intende acquisire. Sono sul piatto, noi abbiamo di sicuro Lufthansa, che ci ha detto che è interessata all'aviation, e neanche tutta, gli interessa l'intercontinentale e i voli europei, e poi abbiamo EasyJet, sempre interessata all'aviation. Poi ci sarebbero alcune, ma qui sono indiscrezioni, perché trattandosi di un'asta pubblica non è stata resa nota alcun nome, quindi indiscrezioni su società che sono invece interessati, aeroportuali, che sono interessati al lotto di handling, di gestione appunto aeroportuale. Quindi parliamo sempre di pezzi. Di spezzatino, no? Diciamo. No, non è proprio lo spezzatino, perché lo spezzatino io ti compro 10 aerei. È pezzi, cioè un lotto o l'altro lotto, ma non l'intera l'Italia, che invece era l'obiettivo sia dei tre commissari, ma soprattutto del governo, cedere l'intera compagnia. Ecco che allora, appunto, la presenza di un investitore grosso, diciamo, dotato di denaro, può avere un certo, come dire, una certa rilevanza, tenendo conto però che tutti, sia Lufthansa che Cerberus, ci dicono che all'Italia così com'è non va, quindi comunque dovrà essere oggetto di una pesante ristrutturazione. Cioè è difficile immaginare che gli 11.500 dipendenti alla fine rimarranno tutti quanti, ahimè, stiamo parlando di lavoratori, non di numeri, però capite, cioè, probabilmente ci sarà comunque tutte le offerte sul piatto comunque prevedono una ristrutturazione, che è un'ulteriore ristrutturazione dopo quella grossa bad company, good company, no? Esatto, è un'ulteriore quindi appunto, insomma, quello che possiamo dire è che è una partita ancora lunga da giocare. I commissari, però, il fatto che ci sia un ulteriore soggetto che dice io sono interessato, diciamo, questo dà, no? È un ulteriore, potrebbe essere uno strumento in mano ai commissari, esatto. Ripercorrendo il ragionamento che tu facevi prima, e cioè attenzione, che non è che siamo proprio scoperti, che non sia scoperti, se la cosa non si chiude riapriamo, esatto. E ci potrebbe e ci potrebbe essere anche un altro fronte. Mi sembra però abbastanza netta la tua analisi su un aspetto, e cioè nessuno la vuole così com'è. Certo. Anche perché, come tu già ricordavi, pochi sono interessati alle rotte interne, perché vogliono o le parti europee, o Lufthansa in primis, ma non penso che... La rotta ricca, Roma-Milano, oramai con l'alta velocità ferroviaria... Sì, poi esiste anche la Milano-Palermo, la Roma-Catania, faccio notare che lì col treno... O la Milano-Bari, che è un po' più dura, può far tutto nella vita, però uno saluta moglie e figli e poi fa intanto il treno, perché i tempi di percorrenza sono un po' lunghi. Staremo a vedere, perché era importante capire, tu l'hai chiarito molto bene, che partita stia giocando Cerberus da esterno, da osservatore in questo momento, e dall'altro anche capire quanto possa, tra virgolette, essere di utilità ai tre commissari, dire beh, non siamo completamente senza un'alternativa se a scadenza di data non saremo soddisfatti. Grazie anche a Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore. Adesso andiamo sul meteo e la pubblicità. Adesso non voglio fare la puntata su Calenda. Qualcuno mi scrive: il ministro su Fincantieri ha calato le braghe. No, guardi, non mi sembra proprio, nel senso che qualcuno le braghe le ha voltate, ed è Macron, perché rispetto agli accordi presi con Hollande ha fatto un volta a faccia che l'avessimo fatto noi ci avrebbero detto les Italiens e quant'altro, e quindi si è trovato a gestire una situazione in cui questi rompono un accordo preso tra governi e tra aziende, questi intesi come Macron, per recuperare un po' di consenso interno. Due, ha messo dei paletti molto duri, tant'è che poi hanno dovuto riaprire la trattativa i francesi rispetto a quello che volevano all'inizio. Tre, ha messo nella partita, in maniera informale, non direttamente, anche tutto il fronte Vivendi su Telecom e Mediaset meno. E su Telecom mi sembra essere stato molto duro su TIM sulla necessità di scorporo della rete e utilizzo della Golden Power. Rispetto al passato, io non mi ricordo, non dimentichiamoci che Telecom se la sono scalata senza che l'allora governo dicesse nulla, pur essendo un settore strategico. E quindi vi dico, averne come Calenda, andiamo sul meteo. La natura di prima mano. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. ...17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Restiamo in tema di trasporti, ma non di trasporti aerei. Qualcuno continua a chiedere, vedo un piccolo inciso, vedo molti messaggi di lavoratori, un infermiere che dice, insomma, quando avrò 70 anni come farò le notti col deambulatore e il catetere, cioè l'infermiere, non il paziente. Un altro mi scrive, lavoro in un supermercato, carico e scarico tutti i giorni cassette di frutta e mi creda, sono stanco, non ce la farò mai arrivare a... lavorare altri 15 anni. E questo è il tema dei lavori usuranti che la Fornero trattò in maniera... tutta quella legge era stata fatta un po' così, lo diciamo a suo tempo, dai, basta pensare alle migliaia di persone che sono rimaste tra coloro che sono sospesi, ma non vedo mai un'autocritica, cavolo, ma neanche da Monti, quando abbiamo avuto un confronto televisivo, tutto bene, tutto giusto, ma ha sbagliato mai, vabbò, il suo professore. Invece, dicevo, i trasporti, perché? Perché oggi si è tenuto un appuntamento a Roma sul ruolo geopolitico dei gasdotti internazionali, ma anche nell'andamento dei trasporti, intendo mondo del cargo. Perché è importante? Perché molti di voi mi chiedono a che punto è il famoso Baltic Dry Index. Lo spiego, chi si fosse perso quelle belle puntate in pieno crisi Lehman Brothers, ormai quasi 10 anni fa. Il Baltic Dry Index è uno degli indici che si usano empirici per capire come va l'economia. Fa la media del costo del nolo, dei cargo per le 60, se non ricordo male, rotte principali a livello mondiale. Più sale, più vuol dire, perché chiaro, più c'è commercio mondiale, più tu paghi il nolo di un cargo. Quando c'è poco commercio mondiale, crolla il prezzo del nolo. Faccio notare che era arrivato a suo tempo, prima dello scoppio della crisi, a una cifra stellare, come può dire anche in bolla, e adesso cerco di ritrovare il Baltic Dry Index che ho sempre avuto in questa scritta, e adesso ovviamente non c'è, ma è tornato negli ultimi tre anni al livello che non toccava dal 2014, quota 1360 punti. Non prende in considerazione il trasporto degli energetici, petrolio e altro genere, perché quello è troppo, segue altri flussi. Guarda il trasporto di carichi secchi come cereali, il carbone o altre commodities. È un periodo in cui il settore dei trasporti cargo vive in una fase di consolidamento e anche trasformazione, perché insomma, era l'agosto del 2016 quando il colosso sudcoreano Hanjin Shipping dichiarò bancarotta con 86 navi con carichi da 15 miliardi di dollari, lo raccontammo, che giravano il mare senza che nessun porto li accogliesse perché temevano le autorità portuali che i servizi non venissero pagati. Anche in Germania resta un problema, le prime 5 banche avrebbero a bilancio prestiti per il settore a 80 miliardi di euro, ma e oggi ne ha parlato anche il nuovo presidente di Confitarma, che è l'associazione degli armatori italiani, rappresenta circa 1000 navi, il 94% del tonnellaggio e 24.000 addetti, 230 gruppi associati. Mario Mattioli, buonasera. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, una prima fotografia sull'andamento del trasporto cargo e poi anche, visto che oggi siete intervenuti, abbiamo un Baltic Dry Index ai massimi a 1360 punti. Sì. Mentre per quello che riguarda la situazione del mondo dei cargo, allora qualche sofferenza c'è ancora? Assolutamente sì, c'è ancora sofferenza, perché è vero che il Baltic ha praticamente raddoppiato rispetto ai livelli minimi, però non ci dimentichiamo che nei momenti d'oro era 11.000 punti, era sotto i 12.000, quindi praticamente oggi, diciamo, essendo 1500, diciamo, non dico il 10%, ma sarà il 15% di quello che era nell'epoca d'oro, per cui sicuramente stiamo vedendo un momento di ripresa dei mercati. Era sceso anche a 640 punti a giugno del 2009. Noi abbiamo avuto il crollo nel 2000 e nel 2008 con il momento di crisi, diciamo giugno 2008 è stato il picco da 12.000 e credo che in 4 mesi è arrivato a fare 600, quindi ha perso nel giro veramente di 4-5 mesi il 95% del suo valore, quindi diciamo abbiamo avuto per tanti anni dei livelli assolutamente insoddisfacenti per il pagamento, diciamo, di tutto ciò che è connaturato all'impresa dello shipping, si pagavano a stento e forse neanche i costi di gestione, quindi tutto l'aspetto finanziario non era remunerato dall'entità dei noli, ed oggi diciamo con un indice intorno ai 1600, come diceva lei, che si è praticamente raddoppiato rispetto ai momenti di maggiore crisi, però siamo ancora a livelli non proprio sostenibilissimi. Quindi insomma, su questo c'è un lo si vede anche nei crediti bancari da questo punto di vista. Voi avete 24.000 addetti, che fanno il doppio con l'indotto, e rappresentate 1.000 navi, il 94% del tonnellaggio. Esatto. In questo momento il problema che avete emerso anche oggi, anche se oggi vi occupavate più del ruolo geopolitico dei gasdotti internazionali, molto abbiamo parlato del TAP, non ho quasi più voglia di tornarvi sopra, ma la criticità maggiore in questo momento qual è? È la parte infrastrutturale, quindi le autorità portuali, dragaggio, possibilità di fare trasferimento dalla nave al treno e quindi anche quello che si chiama retroporto, o che cosa? Ma guardi, noi innanzitutto posta così diventa molto. Allora, noi abbiamo un mercato. Tutto questo vuol dire lei? No, dai dragaggi al retroporto. No, un mercato italiano è estremamente importante. Poi, naturalmente, la maggior parte delle nostre imprese lavorano in un mercato completamente mondiale, voglio dire. Quindi, i limiti o almeno i vincoli che noi in questo momento vediamo nell'ambito italiano sono esattamente quelli che diceva lei, cioè la necessità di attrezzare maggiormente i nostri porti, la necessità di avere i dragaggi effettuati per far entrare queste navi di maggiore dimensione, quindi incrementare naturalmente il traffico nell'ambito dei porti e quindi essere anche attrattivi per quei vettori internazionali che non ci scalano in funzione delle nostre dimensioni, ma soprattutto la cosa importantissima è poi creare un importante collegamento tra il porto e, diciamo, la catena distributiva delle merci, sì. Perché questo, quindi l'infrastrutturazione del paese è fondamentale. Se mi consente di dirlo, io credo che sia ancora più fondamentale ragionando su quello che sono gli investimenti cinesi che avranno come terminale finalmente per la via della seta, tutta, dice lei, tutta la parte via della seta, ma soprattutto la parte via mare che praticamente tocca l'Italia, e l'Italia diventerebbe il punto terminale, quindi avremmo, se ben strutturati, se diciamo ben infrastrutturati, potremmo essere noi finalmente il gateway che porta le merci in Nord Europa. Tant'è vero che in un recente convegno avevo lanciato l'idea del sogno del Ministero del Mare, che fosse un ministero proprio dedicato a tutto ciò che ruota attorno al cluster del mare, che è estremamente importante, che possa... Beh, noi sappiamo, lo diciamo spesso, insomma, che una nave che attracca a Gioia Tauro risparmia una settimana di navigazione per arrivare ad Anversa. Il problema è che la perde via rotaia delle volte, o vale anche per Genova delle volte, in cui si preferisce attraccare nella quello che qualche ascoltatore chiama la Lega Anseatica, insomma, nei porti del nord Europa, per poi far scendere via treno le merci in Lombardia o in treno, piuttosto che far arrivare da Genova. Ma questo purtroppo è la realtà, considera i volumi che esistono nel porto di Rotterdam, nel giro di 10 mesi fanno gli stessi volumi che fanno tutti i porti italiani assieme in 12 mesi, quindi da questo punto di vista è assolutamente... Senta, Mattioli, volevo tornare su un ultimo tema, visto che poi parliamo anche di mondo del lavoro e mercato del lavoro. Voi avete come Confitam una contrapposizione ancora forte con Vincenzo Onorato, è stato nostro ospite tempo fa, che è uscito dall'associazione. Il tema è, lui dice, voi non difendete i posti italiani, prendete come dipendenti, nella parte si riferisce soprattutto alla crocieristica, non so quanto si riferisca alla parte cargo, ma lavoratori, diciamo, perché costano meno. Esiste, adesso, al di là dei vostri rapporti con Onorato, che sono fatti vostri, ma insomma, esiste un modo anche per difendere l'occupazione italiana in un settore così delicato? 24.000 addetti. Ma guardi, io le dico una cosa. In Italia, ma insomma in tutto il mondo, soprattutto in Europa, oggi stiamo assistendo a delle ventate di populismo importanti. Io le dico questo, l'impianto che è stato fatto in Italia, che si chiama registro internazionale e di conseguenza il regime della tonnage tax, è un regime voluto dall'Europa, ed è un regime voluto dall'Europa in funzione del fatto di avere ancora navi che possano battere una bandiera europea, messe in grado di poter essere competitive a livello mondiale con quelle bandiere che hanno evidentemente meno vincoli. Detto questo è l'impianto normativo fondamentale. Per quanto riguarda la questione relativa all'imbarco o meno del personale italiano, eccetera, è una polemica oggettivamente abbastanza sterile. Esistono determinati campi in cui c'è una obbligatorietà dell'imbarco del marittimo comunitario, perché oggi non parliamo di italiano, ma parliamo di comunitario, sono i traffici in riserva di cabotaggio, vale a dire traffici tra la costa e le isole nel caso italiano. Esistono poi dei traffici che sono dei traffici internazionali, quindi al di fuori, e quindi non soggetti a nessuna, diciamo così, riserva da parte della comunità europea, su cui c'è la possibilità di avere imbarco di equipaggi misti, italiani e stranieri. Ma tutto questo qua viene fatto nel rispetto di tutte quante le norme nazionali e soprattutto internazionali, soprattutto con la sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali. Ora, se in Italia nessuno tutela più nessuno, per l'amor di Dio, sarà vero. Io le dico che noi rispettiamo al 200% tutte quelle che sono le normative che lo Stato italiano ci dà rispettare, evidentemente, per ottenere non un vantaggio, diciamo, come italiani. Noi abbiamo il nostro vantaggio è quello di poter ancora oggi competere. Se noi non avessimo tutto questo, fondamentalmente non esisterebbe più la bandiera italiana, ma non esisterebbe la francese, la maltese, non esisterebbe la danese, eccetera, eccetera, eccetera. Di fatto non esisterebbe l'europea. Quindi sono polemiche oggettivamente abbastanza, secondo me, da populismo. Poi fa piacere a tutti, voglio dire, certe cose. Quindi a tutti si assumete italiani, questo è chiaro, però capisco, ma anche in maniera più assoluta. Ma noi il personale italiano, innanzitutto noi abbiamo anche dei limiti dal punto di vista degli italiani. Io non so se qualcuno, diciamo, legge i rapporti, ma tutte quante le scuole europee non riescono a produrre circa 200.000 ufficiali per la nostra flotta, quindi dire, non per la flotta italiana, ma per la flotta europea. Quindi evidentemente c'è a molti un sistema da andare a vedere e intercettare. Noi come Confidarma lavoriamo... No, ma a me interessava perché è una polemica che va avanti anche sui giornali, per quindi non potevo non chiederla. Grazie comunque al Presidente Confidarma, in bocca al lupo all'intero settore, appunto 24.000 addetti diretti, il doppio con l'indotto, 230 gruppi associati di Confidarma, grazie al Neo Presidente, in bocca al lupo anche perché lei è Neo Presidente, Mario Mattioli. Vedo moltissimi messaggi su lavori usuranti, anche commercialisti, gente di commercio, ne parliamo fra 20 minuti. Vado sul traffico e poi vorrei capire quanto è importante poter aprire IPIR anche nel settore immobiliare. L'apertura ieri del Sole 24 Ore, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, i PIR nel settore immobiliare, ne parlava ieri il Sole 24 Ore in prima pagina. I PIR sono i piani individuali di risparmio che finora escludevano le società del mattone. Invece, in una delle bozze dei DL di bilancio si vorrebbe dare un potenziamento di questi PIR, che valgono, perché sono stati ben accolti anche dalla clientela, 5 miliardi e 300 milioni a metà del 2017, il Ministero dell'Economia e Finanze stima 10 miliardi nell'intero anno. Manfredi Catella, fondatore e amministratore delegato di Coima Res, buonasera. Buonasera. Quanto importante per voi? È chiaro che insomma voi che fate immobiliare, te ben venga un nuovo strumento, ma che cosa potrebbe portare nel settore? Tutti mi chiedono, ma quindi vuol dire che aumenterà il prezzo del mattone? La prospettiva direi è fondamentale, perché oggi in Italia manca un mercato quotato di società immobiliari che poi di fatto sono domestiche e quindi consentono di mantenere la stabilità dell'investimento nell'immobiliare nei diversi cicli di mercato. Oggi l'Italia è un po' dipendente da capitali internazionali che arrivano in Italia quando magari c'è l'opportunità di essere in Italia, ma poi non sono capitali stabili, quindi non sono capitali che possono necessariamente finanziare lo sviluppo economico del paese, e proprio nell'immobiliare, inteso come investimenti sul territorio, riqualificazione di edifici piuttosto che di città, certamente uno strumento quotato, una società quotata stabile italiana può naturalmente svolgere questo ruolo. Quindi i PIR in questo senso non hanno un ruolo tattico, hanno un ruolo strategico. Di medio-lungo termine, dice lei. Di medio-lungo termine, assolutamente. Ecco, Manfredi Catella, tra l'altro la legge sui PIR prevede un insieme di cose, cioè che il 21% del valore complessivo deve essere investito in mid small cap, cioè in titoli a piccola o media capitalizzazione, e poi le agevolazioni previste sono relative all'investimento di non oltre 30.000 euro o 150.000 euro in 5 anni. Le persone fisiche godono di due esenzioni, infatti non pagano l'imposta su capital gain, su guadagno da capitale, quindi pari al 26% per gli altri invece guadagni da capitale, e hanno l'esenzione per quanto riguarda la tassa di successione. Vorrei capire, dopo il GR24 e la pubblicità, se lei ritiene che, confermata in legge di stabilità, in legge di bilancio, questa norma andrà a influire più su la tipologia di cui lei è esperto, cioè grandi investimenti immobiliari, e quindi insomma lei faceva l'esempio anche di una stabilità su importanti flussi di cassa, oppure potrebbe arrivare anche investimenti più piccoli? Le chiedo, so che le chiedo ancora qualche minuto di pazienza per la risposta dopo il GR24. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dai, Deborah, racconti la borsa tutto il giorno, dammi un titolo. È meglio il petrolio che sale o il dollaro che scende? È arrivato, se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure. La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori. Sì, perché non sono temi difficili, noi dobbiamo essere autorevoli. E leggeri. Sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza. Bravo! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Tutti i giorni alle 11 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. To let myself flow, to let myself flow. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'intervista con Manfredi Cattella, fondatore e amministratore delegato di Coimares. Chiedevo prima del GR24 se l'apertura, vediamo se verrà confermata, degli investimenti dei PID, dei piani individuali di risparmio, il Ministero stima 10 miliardi quest'anno, l'apertura, dicevo, anche al settore immobiliare, oltre che avere e dare, come lei ricordava, un elemento anche di strategico di medio lungo termine all'assetto, a chi possiede forti investimenti immobiliari, lei lo vede più concentrato su grandi operazioni o anche su un mercato più piccolo, di taglia più piccola? Il ruolo di una società immobiliare quotata in un portafoglio di investimento è quello sostanzialmente di proteggere il capitale e dare un dividendo, quindi l'investimento naturale, strutturale che una società di questo tipo dovrebbe fare è in immobili che appunto grazie ai canoni di locazione pagano un dividendo all'investitore, all'azionista, per cui sicuramente sono società che in primis devono investire anche e prevalentemente in singoli immobili e quindi, diciamo, per rispondere alla domanda, in operazioni più piccole dimensionalmente. In prospettiva, una volta che le società crescano, certamente possono affrontare anche progetti magari di impatto più ampio, ma sempre mantenendo quella missione molto rigorosa, direi. Quindi anche prudente, diciamo, se vogliamo. Assolutamente, è uno strumento prudente, nasce così in America, si sviluppa così nei diversi mercati. L'Italia non ha ancora dato ai risparmiatori uno strumento come questo e anzi a volte sono stati anche quotati strumenti immobiliari che non necessariamente nascevano per essere quotati in borsa, no? Come i fondi chiusi, che normalmente sono strumenti di private equity e non necessariamente quotati. Senta Cattella, un'ultima domanda, qui più sulla sua sensazione e monitoraggio del mercato immobiliare, visto che voi avete un portafoglio di 577 milioni, se non ricordo male. Avete anche acquistato recentemente qui vicino, via Monterosa 93. Come si sta muovendo il mercato immobiliare in Italia? Quello che voi vedete, chiaramente, non è il retail classico. Le rispondo in particolare per quella che è la nostra missione della società, che è di investire nel settore per uffici. Il settore per uffici ovviamente ha in Milano il mercato più liquido, il mercato certo, più ampio, e dove infatti la società è concentrata perché abbiamo un'esposizione ormai al 75% del portafoglio, e in questo senso Milano certamente sta vivendo una stagione positiva perché sia i canoni stanno crescendo, sia i valori al metro quadrato stanno crescendo, questo grazie anche a un momento, un ciclo di mercato positivo che poi ha visto molti investitori internazionali e spero anche italiani, tra poco anche con le SIC, particolarmente attivi negli ultimi 24 mesi. Allora grazie anche appunto a Manfredi Cattella, fondatore e amministratore di Coimares. Andiamo adesso sulla borsa per occuparci soprattutto di Monte dei Paschi e in parte anche di BIM. Debole oggi la giornata in tutta Europa, devo dire Parigi meno 0,40%, Francoforte meno 0,50%, Londra meno 1%, nonostante un PIL migliore delle attese, Madrid meno 0,50%, Milano meno 0,80%. Al di là di Leonardo che guadagna l'1%, Yux Net a Portello 0,70%, Mediaset e Unicredit 0,5% di rialzo. Saipem perde il 3,80, Fiat Chrysler il 3,20, Italgas il 2,80, Tenaris il 2,12, titoli che però erano cresciuti in queste ultime sedute, poi vedo anche Terna meno 1,70, Banco BPM meno 1,70, Luxottica meno 1,50 come Snam ed Enel. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. vorrei concentrarmi su due cose. Chiaramente il Monte dei Paschi, che ha chiuso a 4,55 euro, collocamento a 4,28 euro, la banca vale 5 miliardi e 200 milioni, però a questo punto si fanno i conti anche su quella che è la perdita potenziale, perché finché non vendi non perdi, del tesoro e quindi del denaro pubblico. Sì, esattamente, Monte dei Paschi è stata una giornata particolarmente movimentata, soprattutto nelle prime battute, ma poi la chiusura non è stata così lontana da quello che era un po' il prezzo indicato come riferimento sia dalla banca, 4,28 euro, sia sostanzialmente dagli scambi sul mercato che riguardavano più i derivati sui titoli, sui bond, sui titoli subordinati del Monte dei Paschi. La chiusura è stata a 4,55 per una capitalizzazione del Monte dei Paschi di 5,2 miliardi di euro. Questo significa che il Monte dei Paschi si colloca al terzo posto, si ricolloca al terzo posto tra gli istituti italiani per capitalizzazione di borsa, dopo Intesa San Paolo e dopo Unicredit, ma davanti alle ex popolari come Banco BPM e UBI. E gli scambi oggi sono stati sostenuti anche con qualche sospensione del titolo, scambi che hanno interessato circa il 4,5% del capitale. E l'altra è BIM. Sì, per quanto riguarda BIM, un crollo del 40% che deriva dal fatto che è arrivata a finalizzazione la cessione di questo istituto, che fa parte della parte in liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca. La vendita, la maggioranza è andato a un è andata a un fondo internazionale, il fondo Atestor, che ha acquistato la quota di maggioranza e lancerà un'offerta pubblica d'acquisto, ma ad un prezzo notevolmente inferiore non solo a quello che era il prezzo di apertura del titolo di ieri, il prezzo di chiusura di ieri, cioè 57 centesimi per azione, ma ancora inferiore al prezzo di chiusura di oggi, perché l'OPA verrà lanciata a 22 centesimi per azione. Quindi chiaramente, certo, il titolo è stato fortemente penalizzato. È probabile che quest'OPA non incontri a questi livelli una forte livello di adesione, ma bisognerà vedere quando poi verrà lanciata e a che punto starà il titolo a quel punto. Allora, migliori e peggiori, come sempre a quest'ora, Zucchi, va bene, Kering, Zucchi sul risparmio non convertibili, Kering è più 7,80, Linde più 5,50, Cattolica Assicurazioni più 4,60, fronte opposto, come tu già ricordavi, beh, Monte dei Paschi, perché si fa il calcolo, è un meno 69%, BIM, Banca Immobiliare, meno 41%, Gequity, meno 8,70%, Sogefi, meno 8%, Biancamano, meno 7,70%. Grazie anche ad Andrea Fontana. Andiamo sul traffico e poi parliamo di pensioni, aumento dell'età pensionabile dopo il dato dell'Istat di ieri, moltissimi gli sms che sono arrivati e i whatsapp che sono arrivati al 349-238-6666 di categorie di lavoratori. Però mi hanno scritto anche, faccio un esempio, commercialisti, dicendo: io faccio 90.000 km l'anno come commercialista, è usurante oppure no? È chiaro che tutti i lavori sono usuranti, però ce ne sono, per parafrasare Orwell, alcuni che sono più usuranti degli altri, abbiate pazienza. Abbiamo, facevo l'esempio di, per citare casa nostra, giornalisti oppure professori universitari che esercitano tranquillamente anche a 70 anni, quant'altro. Più difficile immaginare, come mi scrivono molti, un magazziniere che si spacca letteralmente la schiena tutti i giorni, che possa fare, per un problema anche fisico, non solo, lo stesso lavoro a quell'età o a 65 anni o altri lavori. L'insegnante, a mio avviso, rientra anche tra questi, in cui hai a che fare continuamente con un aggiornamento, cioè bisogna anche stare attenti per non fare di tutta un'erba un fascio. Comunque ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, tutte le sere. Sono un eroe e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Sono un eroe. Ho Allora, per lavori usuranti si intendono impiegati in mansioni particolarmente usuranti, notturni, a turni o per intero anno, addetti alla cosiddetta linea catena, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti. Per mansioni particolarmente usuranti si intendono lavori in galleria, cavo, miniera, mansioni svolte in sotterraneo, lavori nelle cave, lavori nelle gallerie, lavori in cassoni d'aria compressa, lavori svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro cavo, lavori espletati in spazi ristretti, lavori di asportazione dell'amianto. E questo è la definizione di lavori usuranti. Lo dico perché molta polemica ancora sull'aumento dell'età di vita e quindi l'aumento dell'età pensionabile dopo il dato di ieri dell'Istat, i sei mesi, quindi dal 2000 si va in più 5 mesi, si va in pensione a 67 anni dall'anno prossimo, non più a 66 anni e 7 mesi. Oggi alcune simulazioni, all'interno della stessa famiglia ci si può trovare con percorsi lavorativi molto distanti, per esempio se gli incrementi della speranza di vita verranno confermati nei prossimi anni, dando, come è accaduto dal 2012 in poi, e dando via aumenti conseguenti della pensione per l'età di vecchiaia, un giovane nato nel 1990 che ha iniziato a lavorare nel 2015, magari proprio grazie al Jobs Act e agli sgravi contributivi, dovrà aspettare prima di ritirarsi il 2061, cioè avrà 71 anni e 46 anni di contributi. Il padre, invece, se è andato in pensione nel 2008, è andato in pensione a 57 anni di età e 35 anni di contributi. Ma se è un padre ancora più anziano, diciamo nato nel 44, è andato in pensione nel 96, è andato in pensione a 52 anni e 36 di contributi. Ora, io capisco tutto, ma non si può dire che 52 anni di età nel 96 valgono 71 anni di età nel 2061, perché io capisco gli sviluppi della medicina, ma o diventiamo tutti dei gig-robot, oppure non ho ben capito a 71 anni come faccio ad andare io in pensione. Giro la domanda ad Alberto Brambilla, che da sempre studia il mondo pensionistico, è presidente del Centro Studi Ricerche Itinerari Previdenziali. Buonasera Brambilla. Buonasera, buonasera a lei, allora, e agli ascoltatori. Cioè, qui stiamo ricevendo decine e decine di WhatsApp di cuochi, addirittura appunto i commercialisti, piastrellisti, idraulici, trasportatori di autotrasportatori, chi fa scarico e scarico, che dicono: ma io come ci arrivo a 70 anni? Possiamo dire che 70 anni possono essere accettabili per un professore universitario, anche per un giornalista, meno per un insegnante che ha a che fare con scuole difficili, con classi difficili ogni giorno, e a maggior ragione se fai lavori anche fisici? Beh, intanto adesso dobbiamo, io direi, facciamo una valutazione per quello che è adesso, perché se io vado a vedere in passato la mia nonna quando avevo 15-16 anni, a 60 anni praticamente si riteneva che la vita fosse praticamente finita, erano proprio vecchi anche fisicamente, vestiti anche insomma a volte in nero, insomma, cioè è cambiato il mondo, quindi io non so che cosa potrà succedere tra 20-25 anni, che cosa potrà capitare, dico semplicemente che oggi si trovano delle persone a 65-70 anni che tranquillamente giocano a tennis, fanno sport, fanno jogging eccetera, una cosa che 30 anni fa probabilmente sarebbe stata impensabile. Detto questo, è forse una revisione del metodo di calcolo dell'aspettativa di vita, forse va fatta, perché per esempio l'Istat la fa sulla base dei 65 anni, non la fa punto a punto, ma la fa da 1/1/2014, l'ultimo caso, al 31/12/2016, non è una somma algebrica, per cui la negatività e quindi la perdita, l'aumento della mortalità del 2015 non è stato praticamente conteggiato, quindi qualche cosa si può fare, però oggettivamente l'aspettativa di vita è tanta e quindi oggi andando in pensione a 67 anni con un'aspettativa di vita di 85-86 anni per le donne, credo siamo arrivati al limite fisico. Diciamo che il rapporto è mediamente 40 anni di contributi, 24, 25, 26 anni di pensione. Oggi questo limite l'abbiamo un po' varcato e quindi forse una riflessione per oggi va fatta. Quindi anche lei riconosce che, diciamo, il rapporto dovrebbe essere quanti contributi più o meno, Brambilla? Beh, diciamo che su 40 anni di contributi, considerando una media massima di 3 anni di contributi figurativi, cioè vuol dire che non ho lavorato ma comunque mi hanno pagato lo stesso i contributi, possiamo arrivare tra la pensione diretta e la pensione indiretta, perché poi c'è una pensione ai superstiti, se ho un coniuge gli va al 60%, tra i 24 e i 25 anni, quindi oggi oggettivamente 67 anni più 25 anni siamo fuori dall'aspettativa di vita, quindi diciamo che siamo arrivati a un certo livello per cui, cioè, lei dice, ci sta dicendo che visto che sarebbe 65 arrivare a 67 e poi ci fermiamo? No, fermarsi magari no, però ripensare un attimino il meccanismo, ripensare le modalità di calcolo, anche perché teniamo conto che al momento noi abbiamo poi questa situazione, al momento la mediana di pensionamento in Italia è 63 anni, sì, un po' sotto i 60 per le varie anzianità, gli esodati, l'ape social, insomma tutte queste cose qui, il part-time Poletti, e 64 anni la vecchiaia, per cui abbiamo una mediana di 63 anni. Di questo passo stimiamo che nell'arco di 5 anni arriviamo tranquillamente a superare i 65 anni, che è la media europea. I 67 in Europa arriveranno in Francia nel 2022, forse se va avanti la proposta Macron. Quindi siamo arrivati a un certo livello, per cui direi facciamo una riflessione. Fermiamoci, se ho ben capito, fermiamoci un attimo, perché se continuiamo a agganciare l'età della pensione all'aumento dell'età della vita, lei stesso dice si supera quello che dovrebbe essere un rapporto ottimale, 65 anni, immaginando 40 anni di contributi. O comunque siamo già arrivati a 67. Faccio notare due cose. Il suo esempio di 65 anni che vanno a giocare a tennis sta scatenando la rete, perché dicono due cose. Eh no, immaginavo, ho capito, immaginavo. Però bisogna anche, perché dicono chi va a 65 anni a giocare, mai visto un muratore andare a 65 anni a giocare a tennis, ma al di là di questa battuta molti mi scrivono, certo, se sei andato in pensione con retributivo e te credo che a 65 anni vai anche a giocare a tennis, cioè qui c'è anche un problema che andranno in pensione con il contributivo, non con il retributivo, non con l'ultimo stipendio, per cui o il circo da tennis te lo regalano o delle volte manco ci arrivi, anche perché oggi abbiamo scoperto che quasi metà delle donne hanno una pensione sotto i 1000 euro, Brambilla. E attenzione però, allora io ho fatto l'esempio del tennis così giusto per far capire che è cambiato lo stile di vita, è cambiato tutto. Un muratore a 60 anni probabilmente 30 anni fa non c'era neanche più, aveva finito il suo ciclo di vita. Oggi probabilmente ha un'aspettativa di vita di ancora 20 anni, magari non in splendide condizioni. Cioè volevo dire questo, detto questo, ho capito. Per le donne è evidente che siccome l'80% delle pensioni di reversibilità sono femminili, se io faccio il conto della pensione vera, vecchiaia su vecchiaia, maschi femmine, anzianità su anzianità, maschi femmine, il differenziale è circa un 20%, che è esattamente il differenziale che c'è nelle paghe tra maschi e femmine anche nell'attività lavorativa. Se faccio la media su tutte le pensioni è chiaro che la reversibilità è al massimo il 60%, quindi è evidente che arrivo a quel livello lì, però non vorrei scatenare gli ascoltatori. Oggi a 65 anni, ma ho capito il suo ragionamento, che è diverso rispetto a 30 anni fa, li ha già scatenati, non si preoccupi, intanto la ringrazio non per averli scatenati, per il ragionamento che ha fatto, ammettendo anche lei che insomma 65, a maggior ragione 67, siamo arrivati a un tetto, fermiamoci un attimo, sennò qua si va veramente nel ridicolo che poi diventa anche tragico. Grazie ad Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Ricerche Itinerari Previdenziali. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche, sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.